pagava. Luca, Luca, ci sei? Attenzione, Luca. Luca, ci sei? Hola, Luca, ci sei? Luca. Attenzione, Luca, se sei in ascolto. Luca. Luca, ci sei? C'è qualcuno qua all'ascolto? Lugariello. Lugariello, ci sei? Luca, sei in ascolto? Luca, ci sei? Gianni, ci sei? Mi sono accesso. No, no. Guarda, adesso è basso, No, non ce l'è. Comunque c'è me. Scappa. Scusa, aspetta un attimo. Prova a parlare. Scappa. Ho un rumore strano. Prova, Natale. Guarda un po', 1, 2, 3. Andava bene. Gava, gava. Di russo, Natale, una bella radio. Se voi mettetelo il microfono amplificato, ma è una bella radio. È abbastanza... è tipo quella del Galaxy quando metti il microfono normale. E lascio quello, da. Da me arrivi benissimo, proprio non c'è niente da dire, la radio è qui. Ehi, cappa. Aspetta. Allora. Guarda un po'. Aumentato. Però non stavo guardando, ma stai lì. Guarda. Così sei 9.25, prova prima. Guarda così. Cazzo, cosa c'è a lineare? 9.20? No, qua sei 9.05, dai. Ma si può regolare questo? Adesso è a minimo. Mettilo al massimo che va bene. Prova al massimo perché c'è la radio distorsa. Prova, vedi 1, 2, 3. Boh, lascialo così. La radio è bella presente, forte. No, non lo toccare la cuscina, te, non la baciare. Ok, ui. Troppo bella così, al massimo. Lo so, quando scala tu mi stai arrivando. Lo so che va bene, ma no, è troppo. Lo so. Andrà bene. Vabbè, là. È tutto a posto. Sono contento per te che sei riuscito a risolvere la problematica. Sì, infatti. Così a Marco vi lo posso vedere. Bello, è bello. Mandami, fai una fotografia e mandamela su WhatsApp. Ce l'ho della scatola e tutto che c'è raffigurato lui. Aspetta un attimo, te la mando su WhatsApp. Ah, mandamela a parecchio, che lo vedo meglio. Vabbè, dai, ti lascio un attimo lì che devo andare, se no non porto il cane, invece. Vabbè, ho fatto la fotografia. Sì, là, ciao. Luca, ci sei? Luca. Molto. E anche l'Intec. Cavagata. Va bene, ma gli alimentatori aumentato anche o no? Sono sempre gli stessi. Un giorno giù, quello solito da quello della Proxel, mi sembra che sia quello switching, quello lì io, e boh, non l'ha già. Mario 2009 come dici? Ma adesso l'amplificato mi ha messo la lì. No, devo invertire i fili, perché c'ha i fili invertiti e quindi lo devo invertire per poterlo piazzare. Ma forse gli lascio questo. Se c'è bene. Benissimo, la va bene, vai amplificata la radio. Cappa. Ed è piccolino. Sta facendo basso, più di 3 watt non dà questo apparecchio. E via via. Cara. Andà bene. Andà bene in meta, come dicono in campidano. Oia. Bella la radio, bella forte la radio. Sono contento per te. Sì, infatti. Ma è come se avessi il 2009. Alla stessa radio, bella forte così come quella di Marco. E K. Già va bene, là. E bene, i pitufi. Come? I bidoni, come stanno? Sì, già stanno bene. Tanto ieri li ho trovati tutti a becco aperto, cazzo, al caldo di cena. Gli ho subito abbassato la cosa, la tenda, gli ho messo i bagnetti, se l'ho fatto subito il bagno. Poverini, vuol dire avevano caldo. Perché il freddo lo resisto, il caldo non riuscito. Resisto più il freddo che il caldo. Dovrei andare a comprarmi quel borsetti, ma non a giocare, mamma mia, andare in chimio, non vede manco parcheggio. Non te lo marcia a piedi, postizi. E così, il primo canapetti è domenico, la sfiga che c'ho. Ah vai, che entri, sì, per prendere un paio di morsetti. Cara. Poi devo salire su e metterli lì. Due le devo prendere, nei due puntati, due o tre, dai, tutto andando male. Perché gli altri ce li avevo e li ho messi. Che vuoi che ti dica? Noia. Claudio è venuto a pigliarsi l'antenna, adesso è tutto libero il tempo. E almeno non ci pensi più. Non ci ho parlato, ricala tutto gatto, ma l'ha iniziato Claudio a scenderla. Almeno non ti dicono più nulla, capito? Ma infatti addirittura voleva fare la lettera a tutti i condomini che io ho piazzato l'antenna nuova. Ora mi è piazzata, io ho telefonato a te per essere ben informati, ma non perché devo chiedere permesso a nessuno, io sono proprietario, ma anche gli altri lo sono. E ho detto sì, ma io nel mio petto ho messo l'antenna, non in quello degli altri. Ognuno c'ha la sua parte, quindi nella mia parte ho messo l'antenna e no, meglio farla perché c'è stato un furto, sono entrati a rubare delle mansarde e cose, quindi è meglio che tu gliela faccia sapere che eri tu che hai piazzato l'antenna, che stavi facendo rumore. Ho detto qua, quella del coso l'ho avvisata, quella che c'era in mansarda l'ho avvisata. Ho detto guarda, se senti il rumore non ti preoccupare che sono io, gliel'ho detto. E tu scrivela una lettera e gliela mando, che sta sostituendo l'antenna che ti si era rotta, molto ci vuole. No, Natale, poi è l'occasione per rompere le palle, adesso sanno che c'è l'antenna e se non gli dici nulla non ci pensano nemmeno, se gli scrivi la lettera, lui te la dì, forse è quello, forse è l'altro, capito? Ma sappigli, non è di vostro, non me la fatti nulla, e te non mi può obbligare a fare ciò che vuole dire. Perché è esterna, come è troppo conto, non è mandato l'interno. Io, hanno mandato l'unità. Così non vi pensano. Ehi, perché svegliare qualche dorma, capito? Bisogna stare attenti con queste cose, perché magari li metti la cuccia nell'orecchio, cioè quello ha messo l'antenna, deve essere gli studi che c'è al televisore, quello, capito? E poi adesso, che questo 5G sta disturbando le televisioni, Antonello si è lamentato lo stesso, che lo stanno disturbando le televisioni. I punti ripetitori dei telefonini sono, cavolo. Ehi, sia, non lo so, che sono le pettiture. Le danno fastidio, gli entrano all'apparato. No, i televisori proprio, disturbano i televisori, dice. E cosa gli fa? Gli fa sparire l'immagine? Non lo so cosa gli fa il ponte del telefonino, solo che gli fa disturbi e tutti se la stavano pigliando con Antonello, ma Antonello non va entrare a vita. Papà, ti prego, voi non sento più nessuno. Manco io ne ho sentito, boh. No, non è che l'ho sentito, ma poi non ho sentito più niente. Avanti chi vuole entrare. Ma fa Zenero Black che da voi non vuole entrare. Quando scala mi arrivi 9.30. Quell'antenna è una belva. E la radio com'è nata lì? Di lusso. E anche la tua va benissimo. Va bene, fa vedere il segnale. Guarda il segnale. 9.25. Bubi, bubi, Roberto, Roberto. Mia Lugariello, mi. E beh, cuomani. E beh, andata di presa. Ehi. Andava, mezz'ora, vabbè, questa, questo già adesso, Ehi, l'omologhizio, quel melegato. E come ti arrivo di segnale? Tu ti hai acceso di lei, due un po'. E beh, noi siamo vicini. Ah, ok, eh beh Gianni, no, ecco come c'è Gianni, ah, Natali, mi aveva detto che tu voglio andare a tutti, e io mi ci siamo andati, e sono da Massimiliano, la mia bacchetta, ma tu mi avvisavi questo, questo cuore di Gianni, boh. Se tu guardi bene, ho salutato anche a te, me ne sono accorto dopo che tu avevi salutato, e ho salutato anche a te, se tu guardi bene, guarda, con tutti e due gli occhi, non con uno solo. Ma è cocomane questo Gianni, a bubu. Ma è più cocomane Luca. Perché io l'ho salutato, guarda, l'hai visto, ti ho scritto Bondi Luca. Un attimo di quel ric. Luca, ah vabbè, non te lo chiedo. Ciupa, ciupa. Oh Luca, cosa si vede? Guardando stai, no? Vero. Hai visto i saluti, li hai visti, brutto cocomane. Ma tu devi salutare a me, no, ha detto, scusa, se permetti, se nella mia bacheca, salutano in privato, no? No, non ho visto il tuo saluto, capito? Io mi sono solo quello di Massimiliano. Se il posto è mio, ma fammi vedere solo quello di Massimiliano, me lo spieghi. Io ho visto Massimiliano che ha scritto buongiorno, io ho scritto buongiorno, punto. Poi ho visto che tu hai scritto buongiorno e io ho preso e ho risposto. Quindi cosa vuoi? Ti ho risposto. Tu stamattina hai tirato cocaina, già. No, tu ti sei fatto. Tu avevi venuto poco fa a prenderci l'antenna. Ma tu vai. No, perché l'antenna vai e vieni, lo sa, pagatevi i fini. Non posso, cioè io ma non posso fare nulla. Adesso uno di questi giorni mi organizzo e mi smonto la mia. E ci piace quello? Assolutamente no. Mi smonto la mia, ma la pulisco, ma la taro bene. Per il 45. E così mi compro anche il 747. Quanto costa adesso il 747? E ho 60 euro, dai. 60 euro più 7 di spese, 67. Io l'ho venduto 40 la poco. Ma non mi sono organi di garanzia. E perché quello mio così la vici? Era quello che usavo in mano. Vabbè, ma la garanzia non le dà fino. Se preferisco spendere qualcosina in più, ma almeno ho la garanzia già. Ma come tutti i miei, ma come io non vendo i telefoni, mica io posso dare una garanzia. La garanzia me la posso dare una settimana, però io posso dare una garanzia un paio di mesi, assolutamente non esiste. E così sono queste cose. Cos'è da una garanzia? Scatta la chiusa. No, non funziona così. È come il computer lo stesso, una garanzia gliela dai, sì. Quando aggiusti un televisore, una garanzia gliela dai. Ma quanto ti vuoi dare? Un mese di garanzia. Vabbè. Se ti fanno il lavoro da un tecnico, logicamente ti dà di più di garanzia. Bisogna vedere se poi trova scuse, ma non era quello, un'altra cosa, sai, cercano sempre di sviare. Sì, ma un tecnico ti fa pagare di più però. Esatto. Lo so. E vabbè, poi sono anche più fatti certi. Comunque mi sono tutto sbocciato, sbarbato, no, io ho stato la barba, no, la barba la tengo sempre lunga. però insomma, come arriva la macchietta un po' me la accorcio, e capisco che devo fare, e cazzo un casino, sto pensando, non posso aspettare tutto questo tempo, sono ottimissima dei capelli. Tu, e io sono l'80, cazzo, ce ne ho lunghissimo. Cazzo, tanto cosa del cappellino. Ma vabbè, se lui non mi ripetino bene bene bene, già rimangono, dai. Poi si vedono, sono ben lunghi. Cazzo, così lunghi io li taglio ogni 15 giorni. Ma ti sono cresciuti a te? Ma perché ce li ho i capelli, io li cavoleo. Se te l'avevo di tagliati a raso, cazzo, c'è che sono quel ciuffetto al centro, il buco. Ah, sono cresciuti, certo. È quello che ti sto dicendo, cazzo, eri disperato che te l'avevi tagliati a metà, che la macchietta non funzionava, non me lo ricordo. E infatti io con la macchietta l'ho riprovata, non tagliavo infatti, mi ho passato nella mano, nei peli che c'erano nella mano, no? E cosa ho fatto? Le ho smontato le lame, le ho passate sopra la carta vetrata, quella un po' grossetta, e non ti tagli addorra. Con la mano, con le due mani che si stringono. Quelle? Quelle che c'hanno a fare che si stringono, le mani che si stringono. Le mani che si stringono? Ehi, la macchinetta a mano, quella che usavo anticamente. No, ma che è la batteria, già, no, la batteria. Ah, no, perché mio padre ce l'aveva quella, si stringevano le maniglie e ti tagliava i capelli. Ed era affilata un bel, tagliava bene. E non so, all'epoca usavano quella, non so, tutto fatto a mano. Se no è cosa del diritticca, quella era bomba. Io lo so, nel profumo. Anche il profumo ci avevano le boccette per spruzzare. Perché c'è la taglia, non te con cuoco, la taglia. E abbassi i gridi. Barroso, Barroso, Emmi. E allora, la baba ne sta scendendo, la baba. Chiappa, la taglia ci sei. Gli è sparito, Splendido, ci sei? Stavi chiamando lui. Boioso, ci sei, e beh, la taglia. Ma se per quella cifra che stavo contando non me l'hai pagato. Non ho capito, cos'è che hai detto? Che ero in cucina. Ho detto, alla stessa cifra che lo stavo dando a me l'hai pagato. Non lo so quanto te lo stavo dando, aspetta, già ci sentiamo in privato, non qua. Va bene, scrivimelo, va. Ma penso di sì, comunque, era sempre quella la cifra. Dopo te lo scrivo. Già è nuovo, sì. Se c'è ancora la pellicola nel display. Pensa tu. Ehi, vabbè. A me piace un apparecchio, già, no, ti piace questo digitale? Come cosa già mi piace, però preferisco sempre quelli analogici. Lo so, 3009, Adesso facciamo un pensierino già io. Fammi fare un coso e me lo ordini anche a me se te lo ordini tu. Io se ci fa uno sconto almeno, dai. Che sconto ci fa? Domani. Che c'è sconto? Domani. Le poste già ce lo fa lo sconto, ci fa pagare di meno. La spesa, praticamente, si divide la spesa, cosa adesso la spesa è 12 euro, 6 euro a testa, e li sono i 6 euro. Infatti. Che bello. Però sono, quanto costa? 180. 180, sì, più 2. 180 più 2. 2 di ricarica, no? Ah, per fare la posta FIFA. Che bello. 182, dai. È già un bel. È un bel. Non lo so, è bello l'apparecchio, però piace molto. So che non se ne vuole fare il bip, capite? Quella è la rottura di balle. Adesso ci vuole che mi il bucanino. Adesso vediamo. Per quello non me ne frega niente, non mi interessa. Anche se non si può tuggere, poi si può fare sempre questo per tuggerlo, basta che gli fa un interruttore come me l'aveva fatto la Lega in quinto Luigi, quello che abitava vicino alla pasticceria di Natalino. Me l'aveva fatto l'interruttore e escludevo il bip. Qual è il bip? Dov'è? Basta seguire da dove esce. Capito che sei con Buddha, quindi un bip. Sì, Natalio, ti parlate in due, già c'è il bip. Metti il bip, Natale. Sì, si può regolare in 100.000 modi. Questo fa e non mi piace. Allora ti... Alfa 21. Allora, io so già il doppio Luca, poi c'è Luca e Natalino. Guarda Natalino se lo senti bene adesso. Ebbene, Riccardì, come mi stai ascoltando adesso? K, allora mi sono un po' capito male io, dai. Vabbè Riccardì, vai per chi vuoi, dai. 9:30 è qua. Ciao Riccardì. Anche qua Riccardino è 9:30 adesso. Ieri era 9:10, oggi è 9:30. Riccardo, no, qua c'è 9:10. Allora è girato l'antenna, perché quando arriva forte a Lucca arriva basso a me. C'è basso, più basso, dai. Quando invece mette l'altro è contrario. Ma stai usando il gommino, stai usando Riccardì? Ho detto, stai usando il gommino dell'antenna, o l'antenna esterna c'hai? Che antenna è? Ma magnetica è? Arrivi benissimo, dai. A Cappuccini sì, sì. Quella a casa di riposo, dove va a casa di riposo? Via Sorso. Dove è la casa di riposo di via Sorso? Entrando dal Campari lì. Ah, ho capito, quella struttura, sì, sì. Sei vicinissimo a me, ma proprio vicino, da due passi da me. E non devi arrivare voi. Io faccio la discesa, che marchino ti sono arrivato. Dai, già arrivi bene, dai. Sono da su, ti devi attrezzare. A casa dei tuoi genitori, lì, devi sistemare l'antenna, devi fare qualcosa lì. Ehi, mi va bene. Fatela costruire, c'è Luca che le costruisce, con 80 euro, 60 euro te la fa. Sì, è quella che ci ha visto salendo per andare a casa tua con le antenne direttive che ci sono. Esatto, ce l'ha lui con l'antenna lì, guarda sopra il tetto e la vedi. Sì, sì, ce l'ha, c'ha quella. Vai, Natalia. Che ragazza, bubu, fondo scala arriva qua. Oggi è fondo scala. È poco boioso questo Natalino. Perché sono boioso, sto dicendo la verità. Anche a Luca arriva a fondo scala. Non per quello, già lo sai perché. Fatti so cazzo tuo, so. Ma fatti Luca. No, carriere. Ma buon cuore, ci si. Ecco, cuore quel Luca. No, Riccardo, sei ancora la nonna qui. Kappa. Ma è una bella. Mi faccio una modulata con questo qua, kappa. Sembri un grande modulatore. Positivo Cavarroggio, non ci sono problemi, capi? Attenzione Natalino Alfa 1, se tu ascolti Luca con la coordinata e caglia da parte mia, mentre Marco scarico e carico, cambia. L'elicottero che gira, gava. Ti conviene venderti quello e compratene uno di quelli che piacciono a te. Questo qua? Sì. No, questo è una battaglia. Te lo vedi? Questo è una battaglia già, fare le modulate, capisci a me fratello, che bella. Che ragazzo? C'è anche su già quello gava. Ehi, vabbè. Magari lo piatto in macchina, non lo so, adesso vediamo. Se la gente rimane, forse faccio un pescerino e faccio fare l'impianto, però da un tecnico, non lo faccio io. Faccio fare da un tecnico specializzato in queste cose, che sappia fare i buchi, tutto qua. Positivo Cavarroggio, non ci sono problemi, io glielo più sotto, non va, mi faccia la macchina, lì su. Lo so, devi fare il buco, capisci? Dietro, la metto, mi prendo la Minox, la PVC Minox, mi prendo e la metto dietro, che piccolina. Ma io, visto che la macchina è nuova, non l'avrei toccata, come al sogno, lascia perdere, già tanto siamo sempre qua, vedete una foto, poi, se tu vai da qualche parte, magari che vai a pescare, vai, esci fuori, ma è troppo anche mettere, poi una base magnetica, ci metto una protezione sopra la capota, se metto la graffia, ti rende lo stesso la magnetica, no che non rende, capito? Io ce l'ho già. Io prendo, la visto solo, l'antenna e funziona, e c'è anche il melegato qua. Avanti il break. Oi, Luca, ci dico la chiedo, se tu ascolti Luca, buongiorno, cambia, cambia. Compagnia di Gianni, Natalino e Riccardino, che sicuramente non sente. Avanti Natalino, raccoppiato Angelino, vai. È il più forte di Sassari, di Arugiai. E con comune di Claudio. Mica è con comune, è vero. Lui ha anche le antenne di plastica, questo Claudio. Allora, a Roberto Quadrato gli sono andato stamani, dice c'è un Beacon a 145-800, vai fila, se io non lo ricevo non ce n'è, no io lo ricevo, sì, ed era 815 però, mi splatter lo sentiva, cuo, lui sì che è cuo, ma... Come? Sì, quel Roberto Quadrato poi è più cuo, ma è di tutti. Avanti già Angelino. Ciao Angelino, buongiorno anche a te Claudio, ciao. Anche il ricordo non si è più fatto sentire, ma questa antenna quando la piattiamo. Diciamo, mi metto un pantalone, così porto anche il cane, dai, ci sentiamo a frappiga per... Ia, vai a portare il cane, io l'ho già portato, ma non l'ho portato a portare il cane, quella lì. Avanti, Clara. Ehi, già, sono arrivato adesso, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho messo anche tutta quella roba su, adesso mi devo lasciare qua. Allora, ciao Angeli, buongiorno, ciao Natalini, come mai ti sento così basso di radio? Sì, perché gli ho tornato a mettere il microfono normale. No, questa non è quella modulazione là, questa è un'altra. Sì. Ma cosa? No, Natalini, tu sei più 40 anni in radio, questa non è la modulazione di quel microfono di quello là. Stai usando un altro microfono normale, però diverso da quello là. E la capsula gli ho cambiato. Vai figlia, vai. Con uomo, Non so se ci trattendi. Il melegatto. Oh, vabbè, e quanto ci è melegatto, Natalini, dai, ma va bene, ok. Dai, riprendete, Angeli, riprendi tu, io arrivo subito che mi do una sciacquata, piscio come volete il gatto, vai. Tutti fuggiti, so. Allora, cosa ti decidi a fartelo fare per il giro? Cosa già? No, ho detto, cosa si decide? Cosa ti decidi a fartelo operare in questo giro? Intanto, non è un'operazione, ti fanno un buco e fanno praticamente un'operazione con una telecamera, eccetera. Io ho visto tutto. Sono operazioni che fanno spesso, sono di routine quelle operazioni lì per loro, e lo so che a me mi dovevano operare a settembre, mi hanno operato a febbraio, non dico altro, sono i dolori che ho provato, non li auguro manco al peggior nemico. Yeah. io ho fatto la domanda Ozieri ad Alghero e a Sassari. No, Ozieri no, lo devo fare anche Ozieri, ma non l'ho fatto. Ad Alghero e a Sassari. Alghero mi hanno detto che avevo chiuso la sala operatoria. Ho fatto la visita, cazzo, mi hanno detto quello che avevo. Addirittura c'erano tutti e due i femori compromessi. Vediamo un po' se ti sente, poi fai girare per lui. C'è anche Alfa 21. Sì, lo so, ma non lo sento Angelino. Ma come è messo come antenna? È strano che non lo senta. Ho sentito dei fischi poco fa, ma non so da che parte arrivavano. Angelino, non lo sento, mi dispiace un sacco, salutamelo. Ha detto che lui ti sente, anche se è basso, però ti sente. E allora sono negativo io qua per Alghero, boh. Non lo sento per nulla. Sento che sta parlando, ma è incomprensibile. È ricezione, sì, perché in trasmissione esce. Ma un attimo, Riccardino, vediamo se ti ascolta Alghero. L'hai sentito a Riccardino? Sua adesso è a casa della nonna, sta uscendo con un portatile con l'antenino fuori. Avanti Luca, ci si. Luca non è rientrato, è ancora con lui laggiù. Natale. Io lo sento in mezzo al QRM a Angelino, però è incomprensibile quello che lui dice, capito? Anche il Carlino lo sente così. Beh, vorrà alzata un po' di più questa antenna qua, è troppo bassa. Diglielo che la colpa è mia. Quasi 7, 6 e mezzo passato, quasi 7 arrivi, un 7 è scarso, là ti posso dare. Vabbè, tutti e due contano. No, mi vedi se ti ascolto bene. Natale, Natale, Natale. Avanti, Riccardino, avanti, cosa ci racconti? Mi ha fatto la sveglia. E invece Marcolino, mio figlio, alle 9:30. Alle 9:30 ha dovuto fare le consegne e poi non so che cosa, ha dovuto anche ascoltare la lezione. Però che rompi palle. Purtroppo la gente che non dorme pensa che gli altri siano tutti svegli a quello. Natalino! Cazzo in oghe! Aspetta un attimo, c'è qualcuno che mi sta chiamando, avanti! K Angelino, va bene! Fatti i pacchi d'acqua fredda a ginocchio col ghiaccio, magari va con uno straccio col ghiaccio a vedere se ti si sgonfia. Ciao Angeli, ciao! Avanti Tattarino. Qua di segnale arriva 7, però è incomprensibile la radio, capito? No, io la sento bene la radio. Vorrà stata un po' curantena in occhio, proprio se no. Sì, e come fa a alzarla? È un casino. Infatti, qua non è tanto semplice la cosa. È già troppo che c'hai quella. Sai cosa bisogna mettere? L'antenna come la via lì è risolto il problema, è alta 7 metri. Ti vuole in un faro e via. E poi con l'antenna lì già lo sai che vanno anche se tu ritocchi in terra. Infatti. Riccardi, lo sappiamo che si dice, cosa ci racconti, cosa ci dici? Cagnolini, un attimo, so. I pappagalli quali sono? Quelli tutti colorati? Ho capito. Ma non parla? E cosa dico? Sono simpatici qui. A me piacciono le scimmie molto. Animali esotici, le scimmie, i pappagalli, quelli grandi che hanno la coda lunga, tutti colorati, il merlo indiano, mi piace un bel. Sì, ce n'è uno da quando, io lo so perché mi servui, per i miei animali mi servui, da Sandro, e via. Ce n'è uno, quello lì non è in vendita, c'è scritto non è in vendita, e ho provato più volte a farlo parlare, ma non sono mai riuscito. Ah sì, perché Sandro si interessa a queste cose, lo so. E anch'io prendo il mangimetrainer lì, per il cane. A Riccardi, no, ieri è andato via, salutate, è andato via. Devi stare più attento. Cappagallo. Natale. Sì, c'è uno solo, vedi, vabbè, io ce l'ho in casa. Sono di. Sì, sono di indole buona qui. Come si chiamano? Culli. 1, 2, 3, prova. Di solito perché cosa li usavano quei cani lì? Cosa sono? Pastori a pecore. Breco? Avanti breco. C'è stato un breco avanti? Prima breca e poi non entra. Natale avanti. Sai come si chiama quello? Quel modo di fare che vi pone di fare i vittimi. Si chiama micropanico. Ah, e magari lui ce l'ha uguale, guarda come sono attaccati i fili dell'altro. Quello lì è bello per il microfono, è il migliore della Tamer. Eccomi Gianni, tutto pulito e saperto fumato. Bravo. Ma un cazzo, la fanno per giù. C'è anche Natalino e Riccardino, Claudio. Poi Luca è scomparso, non so dove sia finito. Avanti Natalino, anche Natalino è scomparso. No, sto pulendo gli uccelli, un attimo. Va bene. Come? Non mi sto mandando un messaggio perché mi ha detto una cosa alle 7.30 già alla commercialista. Allora mi ha risposto già, così tu. Allora ho detto ciao, come rimaniamo d'accordo per le 7.30? E lui mi ha detto ciao, ci sentiamo più avanti, intanto è stato prorogato al 30 settembre, lo studio è ancora chiuso, capito già? Quindi ci abbiamo tempo? Sì, lo sapevo, speriamo che questo periodo qua, perché devo fare anche le 6.3? Non è che possiamo andare prima le 6.3 senza mandare l'altra documentazione, perché vogliono gli ultimi 3 anni, vogliono anche la carta d'identità, il codice fiscale, stato civile, eccetera, eccetera. Quindi devo mandare tutti insieme la roba, non è che possiamo avere prima una cosa e poi l'altra. Lo so già, anche mio fratello ha la stessa cosa, anche lui fa le stesse 3, capito? Ha le stesse patologie tue, diciamo, non è che cambia molto. Va bene, vabbè, comunque ci abbiamo tempo, io ero preoccupato perché siamo già a maggio, non so se io l'ho dato tutto ad aprile, quindi ero preoccupato. Va bene, ci ha pagato per fare il rosmetto. No, io Riccardino non lo sento per niente. Adesso ancora peggio di prima, quindi se ho sovrammollato chiedo scusa, però io non lo sento. No, sta uscendo col portatile a casa della nonna, Claudio, ancora non lo sento. E non mi arriva 9.05, 9.10, da Natalino 9.30, perché in quella zona, capito? Ehi, a chi è? Io adesso arrivo in Santiago 3, Angeli, prima arrivavo in Santiago 7 qua. Sì, di radio ti sei. Angeli, questa mi piace di più la radio, il segnale è più basso anche da me, non arrivi neanche a 9, però la radio è più bella questa è più chiara la radio, no già? Sì, sentiamo tranquillamente. Poi quando sarà metterai l'antenna come si deve e arriverà una bomba. Perché l'antenna, in quella foto che mi hai mandato, non l'hai piantata? Sempre Angelini, io intanto vabbè, adesso posso muovermi tranquillamente, ho l'autorizzazione per muovermi, con la scusa che mie sorelle sono Galghero, magari ci mettiamo d'accordo, quando sei pronto, capito, ti do una mano io, se mi dovessero fermare questo mando a casa mia sorella, quindi non c'è problema. Ma figurati, non ci sono problemi, lasciami liberare, c'ho alcune cosette sospese, poi ci mettiamo d'accordo, vai, un sabato mattina ci faccio un salto e ti do una mano a montare la antenna, dai. Sì, deve essere cosa ci ha sentato, ma infatti, radiale di più mette a uno. Ma magari se quando riusciamo a beccare qualche durata, io vorrei volentieri Angelino, ma solo con la gamba così, lo sai che non posso fare sfurti. Magari le trovo qualche durato che va con lui e te la piantano loro direttamente. Bravo, non devi sfruttare. Lui, anche a mamma non avete non fare scusi, stavo camminando bene e sto di nuovo zoppicando. Cavolo! Sembra così, ma hanno ragione i dottori. Bisogna usare le stampelle e ce la portano di colore e basta. Ehi, oh yeah, già siamo messi bene, sì, dai, già ce n'è un po' per tutti, via, non ti preoccupare, G. Ripeto, lasciami liberare, mai ci aggiorniamo su WhatsApp, lasciami liberare un po' da queste cosette, poi ci mettiamo d'accordo e vediamo un po'. Già si piazza l'antenna, non ti preoccupare. C'è un'affa, già, ma proprio di quelle, saranno minimo 25-26 gradi, cazzo. E anche ieri sono salito sul tetto a fare con l'acqua ventilata, se sono crepato, sono andato a casa, mi sono bevuto una bottiglia da 2 litri di acqua. E io mi sono spogliato, faccio un caldo, allucinante. Va bene, va bene. Cantalino cosa sta facendo? Non lo so, non ha risposto. Riccardino che voleva dire qualcosa, avanti Riccardino. Aspetta già che mi rimetto le 60, vai. E questo microfono è un bel forte, si sente tutto e fa disordare gli enti. Aspetta, mi rimetto il 60 e questo lo metto a posto. Riprendi Angelino. K. Ecco qua Gianni, dai, ho rimesso il 60, ok? Molta differenza c'è? No. Questo già viaggia anche questo microfono. No, è troppo grande quello là, non c'avevo posto per mettere il telefono sopra la scrivania, dai, lasciamo questo. K. Tanto, non c'è un valuto. Infatti. Oh via. E salviamo, mi affidami che si vuole sentire, se no mi dici dubbi. Oh io. Passa anche in banca, mi ritiro qualcosa e qui vado e compro quella roba. E vai già, vai, già sono qua io, vai, prendi questa roba. Magari che mi consola. Già, se non ci muoviamo, hai visto? È organizzato, stamattina io ho fatto le cose che dovevo fare. Ci ho fatto l'appuntamento, abbiamo fatto tutto, ho messo tutto in ordine, sto a posto. E bisogna fare le cose. Altrimenti è un casino, dai. Ok? Così io mi allontano un po' dalla radio, dai. Ci sentiamo dopo? Ehi, vediamo, dai. Magari più tardi. Poi devo cercare anche il pesce spada, ma il pesce spada è il tonno. Tu non lo sai che ce lo può avere il tonno. Ma il tonno come? Il tonno a trance? Eh già, io l'avevo preso la Conad una volta, penso che ce l'abbiano. Tu mi insegni, c'è una vita che lavori in quel settore, non lo so, se ce l'ha, può darsi anche via Pascoli ci sia. Alla Cisa, alla Cobec. Mi serve perché c'è Marco che compie gli anni, vuole a Prato, vuole quello. Non vuole carne, ha detto, vuole pesce spada. Vuole il tonno. Ma se il tonno per prima cosa, poi se non c'è il tonno anche il pesce spada va bene. Sì, va bene. Però come via Pascoli già, di solito sono ben forniti quella. Già lo sai come funziona, no? È proprio il tuo settore. Sono forniti lì la pescheria di via Pascoli della Cobra che prova. Se no l'unica era il mercato, ma come fai? E dove asino, vabbè là, adesso vedrò. Tanto è il 7 che compie gli anni, quindi c'è il tempo. Sì, allora. Già, va bene. Ok, ci sentiamo dopo, che mi allontano un attimo. Sì, io sto andando, dai. Vado, compro quei morsetti e via. Va bene, dai. Ok, a dopo. Ciao, ciao, ciao Angeli, ci sentiamo. Ciao anche a Alfa 21, vai. Beh, tutti spariti. Gianni è andato a Tennessee, ma tutti spariti. Bobo, Riccardi, chi sei? Guacomane. Guarda un po'. Eia, allora, sergendo il mic originale. Eia. Perché mi sto regolando il volume di ricezione. Aspetta, lascia bianco. Eia, tu mi ascolti bene? Fai un passaggio lungo? Ti ascolto benissimo. Aspetta che metto il coso a vedere se è regolato bene. Ah, il mic gain, sì, controlla, verifica che sia davvero a 63. Qual è la voce? La prima, la primissima. Tieni premuto un secondo, ti compare IC9. Sì, a 63. Eia, ascolta, prova a parlare prima attaccato al mic e subito dopo tre dita dal mic. Così come faccio io, tre dita dal mic. Vediamo la differenza. Allora, così è vicino e così è tre dita dal mic. Buono comunque, io direi che due dita è ottimale. Due dita, un dito, due dita, dai, l'importante è che non parli appiccicato, capito? Ricordati comunque che il mic originale non è eccezionalissimo, li puoi mettere un microfono generico tipo Lafayette DMCG507 e migliora già un po' di più. Fai attenzione che tu hai la spina a quattro poli e su uno dei poli arriva della tensione. Quando lo trovo ti dirò qual è il polo da lasciare libero. Comunque va già bene così. Quanti watt sei? A manetta? Ammatto sì, a minimo so. No, no, per vedere se la radio perde. Guarda che sono pochi, mi sono 12. Metti a manetta. Fammi vedere il segnale e la radio. Guarda, così a manetta, dai. Sì, ci siamo, dai. Una modulazione ovviamente normale. Ascolta, niente sai se il padrone gli aveva aumentato il mic gain da dentro? No, non lo so, bisogna chiederglielo. Ah, ok, perché volendo si può aumentare anche quello, ed è ancora più forte. Poi stasera entrerò con lo stesso apparato e ti faccio sentire appunto... Casomai ti dico altre voci di menu, no? Che però dovrebbero essere quelle standard. Adesso tu inserisci il beep col tastino RB. Dovrebbe risultare breve breve tipo Colt. Buttateci tutto. Guarda un po'. Eia. Ciao già, avevi sentito. Fallo tante volte Natalì. Sì, sì, ci siamo, è lui. Come lo senti Natalino? Sta provando un parecchio. Bene, bene, buongiorno Natalino, buongiorno Marco. Sì, va bene, va bene. Credo che sia lo stesso giocattolino che c'hai tu. Esatto. Il mio è marcato Intec, il suo è quello originale, diciamo. Il Melegatto, Emmy. Bene, bene, va benissimo Natalì, forte e chiaro. Bene, mi senti? E ti lascio dito, forte e chiaro. Ultimo abbondante. Gava, gava. Io, naturalmente, seguendo le istruzioni di un youtuber, ho tolto la spugnetta che c'è davanti al mic, tra la capsula e la gabbia del mic, e gli aumenta qualcosina, perché hai sempre poi comunque una membrana che evita agli sputazzi di entrare dentro il microfono e guadagni ulteriore radio, un'ulteriore modulazione. Bisogna il coso l'MB-4 li devo adattare, però devo sapere quello che devo lasciare libero. Eia, ascolta, ricordati, sta lì, parla frontale al mic, perché quel mic mi hanno detto che è direzionale, cioè se ti metti di lato non prende, devi stare frontale a due dita diciamo, non attaccato comunque, se no è tutto così. Io ho capito, là, così va bene. Là. Ecco, quello è un bel apparecchio, vedi? Un bel apparecchio quello. Il mio segnale cosa accende? Il più 10, il più 20 o il più 30? Poi rilancio Gianni, eh? 1, 2, 3. Il 30. Arrivi in fondo scala qua. È troppo vicino. Vai Gianni. Ehi, aia. Bene, meglio, dai. Hai fatto passi da gigante, Natali, dai. Che con tutto il rispetto, anche se non ci conosciamo in verticale, con tutto il rispetto, però la radio che avevi prima era, come diceva qualcuno, forse Paolo Villaggio, era una cagata pazzesca. Adesso ne ho due di MB più 4 perché mi hanno aggiustato anche l'altro. E l'altro lo metto qua. Perché c'è l'attacco a 4, capito? Poi Natali controllo la piedinatura del Maica, sappi che ha la stessa piedinatura del 3009, però non devi collegare il filo della ricezione, non lo devi collegare. Per il resto poi ti dirò la piedinatura. Vogliamo provare in FM? Proviamo in FM, non c'è problema. Gianni, vabbè, in ascolto puoi andare, sì Gianni. Thank you. la capa. Io metto te ordine qua, vi faccio la contraddizione. Passa una M, passa. Beh, torre di controllo. Beh, occhio di lince. Eia, Natalino adesso è soddisfatto, dai. Perché non me ne sono accorto che stavo usando qualcosa di più concreto. Io non sono soddisfatto, sono più che contento, dai. Sta uscendo bene Natalino, sta uscendo. Alla grande, ma ciao Fra, ma Natalino, ma non l'hai messo il coso, come si chiama? Il microfono di tavola? No, ancora no, non l'ho messo. Io due. Adesso lo metto quello di tavola, però devo sapere la piedinatura perché in uno non devo attaccare nulla, è come il Lincoln. Io attacca, dalle aria che sul baracchino, falli fuga però. E se vesi sarrato 31 gradi al suo baracchino. Vabbè, ma tu fra. Capo. Aspetta, ha cambiato modulazione, da USB a qua ha cambiato totalmente modulazione, e dall'FM. Quelle spingono, quelle vanno bene in SSB, sì, l'ho ascoltato col 440, bello centrato, a posto, tranquillo e sereno. Sì, anche qua non ho toccato niente per lui, Marco era un pochettino forzato e basta. Kappa di Rogero, uia, sono tornato all'ufficio a fare un po' di fotocopie, un po' di cosette, poi sono passato da Gianni, a trovare Gianni a prendere il mio caffè, ma un caldo, ma caldo per Asciuscio? Caldo, guarda se Matessi, e allora? Siamo a due bassi. Ascolta, tu lì su come stai? Nel senso, dove c'hai le radio? Bene, sta benissimo, alla grande. Anche perché c'è quella porta, fa la finestra, ma io mi sono qua, mi sono la radio, in cameretta. Tutto a vecchio, c'è una bella rietta, ma sono uscito fuori a me credi che ho dovuto accendere per una decina di minuti l'aria condizionata, ho rinfrescato la macchina poi l'ho spenta, che non si può dire il caso. Capo, dopo che ti faccio di no, che allora, qua io non sono seduto davanti alla radio, c'ho la porta aperta e entra una piccola leggera rietta. Anche qua fa, come con la bella, sì, se chiudo la finestra non si sta bene. Perché c'è afami, sole non ce n'è molto, c'è coperto, capito? E fa ancora più afanculugandia. E beh, pipistrello, ieri notte è tardi, è chiuso. Marco, ragazzi, ne ha tanto fuggi, grazie. Capo, anche in mare c'è un po' di nebbiolina. Sì, ma si vede, perché io sono in mansarda, sono per controllare, io salgo sempre a controllare, non ci sia mai. Perché una volta mi hanno aperto la porta, capito? Ci hanno portato via tutte le lampade che avevamo tolto dalle scale, che le abbiamo messe a norma c'è anche quelle, le hanno appoggiate lì, grazie a che lui ha saputo rivelare le lampade e si era buttato la midai, capito? Allora ho cambiato la serratura, l'ho messa di quelle blindate, diciamo, però ogni tanto salgo a controllare, non si sa mai. Che non sei, quelle cose fanno gola. Che nuovo, solo che l'amministratore ha voluto cambiare perché dice che non erano più a norma. Abbiamo messo quelle nifughe, no? Quelle con i portalampadi in batilite, insomma quelle lì, capito? E gli altri mi hanno detto, cara, le mettiamo qua sulla te, poi con calma le faccio portare via. A due, si siamo buttati quasi tutti. Hanno aperto tre volte la porta, tre volte. Capito? Ma penso che non l'abbiano in barò. Capo, vedete che gli servivano. Oh vabbè, che cosa devi fare di quella? Buttarle? Sì, ma non so l'amministratore cosa voleva fare, ma per campagna, per capito. Ma sai che le chiavi ce le ho io, no? Sai che le chiavi ce le ho io perché metà del condominio c'ha un quinto, il resto è tutta roba mia. Cazzo chiedimele, no? Non è che mi dai mai quelle lampade. Certo, io su che te le do un paio. Apro io, cosa mi faccio da Ryan? Due volte ho dovuto chiamare il